Allora, come ben si sa, questa mattina le emittenti locali romane sono state oscurate da una mossa arbitraria dell'Enel, che ha fatto dei fantomatici lavori di manutenzione con i quali ha staccato la corrente e ripetitori di Montecavo, ed è gravissimo che proprio oggi, con la visita del presidente Bush a Roma, sia di fatto negato il diritto ad informare su quanto avviene in città e sulle numerose iniziative contro la guerra che si svolgono già da questa mattina. Non abbiamo ricevuto nessun avvertimento, anche se abbiamo saputo, cosa ancora più grave, che alcune emittenti romane avevano invece ricevuto questi avvisi, appunto. Non siamo stati contattati da nessuno, nonostante le interrogazioni parlamentari urgenti che ci sono state, nonostante le mobilitazioni e verso l'Enel e verso le istituzioni, non ci ha contattato nessuno. Soltanto quando ci siamo resi conto che era tornata magicamente la corrente, abbiamo potuto iniziare a trasmettere di nuovo.